Beh, il ragionamento che fa Fortune è interessante. Steve Jobs sostanzialmente è in grado di influenzare più aree contemporaneamente. Cioè, lui ha una carriera di 30 anni perché Apple è nata nel 1976 ed ha sicuramente influenzato profondamente il mercato dei computer, come sappiamo, con i Macintosh, ma ha anche influenzato quello della musica digitale con l'invenzione nel 2001 degli iPod, che sono diventati oramai un'icona classica. Negli Stati Uniti questo si accompagna non solo alla vendita di musica online, ma anche di film e telefilm, quindi sta influenzando profondamente anche Hollywood, dove peraltro, quando non era in Apple, aveva già fatto delle cose notevoli come Pixar, che noi conosciamo per i cartoni animati tipo Toy Story, che sono stati distribuiti dalla Disney. E ancora è entrato nel settore della telefonia mobile con il famigerato iPhone, di cui si parla tanto, nonostante in Italia sia non ancora arrivato. E infine, soprattutto negli Stati Uniti, ha creato una delle più innovative catene di negozi retail dedicate, monomarca, dedicate ai prodotti Apple, che stanno letteralmente ridisegnando il modo in cui tutti gli altri grandi brand approcciano il pubblico con una linea di distribuzione. Un'altra delle cose che ha sorpreso in questa classifica è che Bill Gates è finito al settimo posto. Bill Gates da sempre è stato ritenuto da molti l'uomo più potente del mondo, oltre che l'uomo più ricco, ma questa classifica non si occupa solo o comunque non si occupa dei soldi che uno ha in tasca, ma si occupa di altro, di capire quanto uno riesce ad influenzare il mercato, perché appunto si parla di business. Una cosa che forse non tutti sanno, ma che tu scrivi, è questo rapporto tra Bill Gates, che è finito al settimo posto di questa classifica, e Steve Jobs, che è salito al primo posto, perché i due si conoscevano da giovani, hanno lavorato molto insieme. Questo rapporto, come è nato, ma soprattutto quali sviluppi ha avuto? Beh, è un rapporto assolutamente di rispetto, in certi modi anche di amicizia, soprattutto nel business, perché noi siamo abituati a immaginarci, a pensare alla storia più facile da raccontare, che Mac e PC, Bill e Steve siano competitor, nemici, avversari. In realtà i legami fra le due aziende sono profondi e il rispetto fra i due personaggi, che hanno più o meno 6 mesi di differenza di età e sono nei 50, cioè sono due grandi vecchi dell'informatica, si sentono un po' di averla inventata, è oramai andato al di là del conflitto aperto. Io ricordo due cose secondo me significative, una che nel 1997, quando Apple riparte dopo un decennio praticamente di sconfitte sul mercato, di grandi perdite, rischio di chiusura, è proprio Bill Gates l'uomo che viene a dare una mano, ovvero l'uomo che in qualche modo, offrendo di aggiornare gli strumenti software come Office per Mac e Internet Explorer, ricordiamoci il 97 era l'anno erano gli anni della New Economy, sostanzialmente rende credibile la ripartenza di Apple. E l'altra cosa, un dato che forse pochi sanno, ma il più grande sviluppatore di software per Mac è Microsoft, che appunto sviluppando la suite di Office con Word, Excel e PowerPoint, ma anche aiutando il marketing e la distribuzione, sostanzialmente lavora e collabora alla riuscita anche della piattaforma, fra virgolette, avversaria, poi realmente per Microsoft l'avversario forse è Linux e non il Mac.